Benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo del 30 novembre del 2016, a due giorni dalla fine della campagna referendaria, che come sapete si chiude venerdì sera. Poi sabato c'è il giorno di silenzio elettorale, infatti nel giorno di sabato noi non faremo Stampa e Vangelo rispettando il silenzio elettorale, e poi domenica 4 dicembre finalmente questo voto che molti attendono come voto decisivo. Saluto Marco Sciaman, Massimiliano Amato, Elena Di Pietro, i primi che arrivano nel primissimo minuto di trasmissione. Vi dico subito che non sarà una puntata né scoppiettante né lunga, perché sono alle prese con un virus, mi ha passato mia figlia piccola, quindi febbre e dolori ovunque e guai intestinali e notti in cui non si dorme, quindi sono oggettivamente un po' affaticato, ma non volevo mancare l'appuntamento quotidiano con l'avvio delle trasmissioni di Popolo della Famiglia TV in queste giornate che sono così determinanti, importanti, anche perché le notizie sono molto significative. Ancora una volta alcune notizie le trovate nascoste purtroppo dai giornali. Saluto Silvia Lodà, Flora Tonelli che dice: come stai oggi? Oggi il medico mi ha prescritto 3 giorni di riposo, quindi bisogna fare questi 3 giorni di riposo e vediamo, diciamo così, come reagirà, diciamo, il corpo a queste 3 giornate in cui non si esce. Tra l'altro, a causa di questa indicazione medica, non potrò partecipare al coordinamento dei romani. Popolo della Famiglia di Roma fa coordinamento domani, ma il medico mi ha detto che per 3 giorni non posso uscire e quindi mi dovrò limitare a incontrarvi tramite questo strumento. Saluto Gianluca Valpondi, Claudia Brignoli, Giovanna Arminio, Donatella Lottà, Maria Rosa Ferraresi. Tanto vi diciamo che c'è l'apertura della Croce di oggi che parla del sì come indicazione di voto dei ministri tedeschi. Ieri è stata la dichiarazione del ministro delle finanze Schäuble e anche del ministro dell'interno tedesco, che indica il sì come scelta all'Italia. Saluto Chiara Sammori, che oggi peraltro è protagonista anche lei sul quotidiano La Croce. L'apertura della Croce è l'unica che vi dà questo segnale, però abbiamo voluto mettere insieme un po' di notizie, perché senza dubbio, lo trovate scritto proprio in prima pagina, Renzi ha incassato il sì di Obama, il sì di Juncker e l'indicazione per il sì ora anche dei ministri tedeschi. Non so se questo può andare bene, diciamo così. Fossi lui non sarei contentissimo. Quando accade lo stesso meccanismo sulla Brexit, voi sapete poi come è andata a finire. Comunque, senza dubbio c'è stata una saldatura di interessi forti attorno al sì. Vi segnalo che abbiamo fatto un esperimento ieri, anzi se volete potete ancora partecipare se non l'avete fatto. Alberto Mantelli intanto mi chiede: dove posso contattarti in privato? La mia email è adinolfi@gmail.com, potete scrivermi lì. Se ti va, fai sapere che ora Stampa e Vangelo è scaricabile in formato MP3 invece, dice Guido Mastrobuono. Questa è una cosa molto utile, fatta proprio dal PDF di Roma e sul sito www.popolodellafamigliaroma.org. C'è anche il canale YouTube da cui si può scaricare o comunque fruire di Stampa e Vangelo anche senza essere in ambiente Facebook, quindi stiamo cercando di rendere fruibile queste puntate ovunque. Silvia Lodà dice: porca miseria, tutti hanno da dare indicazioni su come votare al referendum italiano, ma si facessero i fattacci loro. Esatto, credo la risposta degli italiani sarà un po' come questa di Silvia Lodà. Quindi, come dice Giuseppe Narciso, ministri e presidenti stranieri non sono per il popolo italiano. Dicevo, abbiamo fatto anche un piccolo esperimento qui sulla pagina Facebook dove state seguendo questa diretta, la mia pagina Facebook. Ho chiesto alle persone che mi seguono fra Facebook e Twitter, ho 112.000 persone, quindi un segmento non proprio irrilevante della popolazione italiana, ovviamente molti sono relativamente vicini al popolo della famiglia, di indicare come voteranno e hanno partecipato molte centinaia, ma in questo momento siamo a 610 voti sul post di ieri pomeriggio che ha chiesto l'intervento e il no è quasi unanime. Ora, diciamolo bene, questo non è un dato statistico, evidentemente sono voti di persone che sono vicine al popolo della famiglia e il popolo della famiglia vota no. Però immaginavo, come si dice in termini tecnici, uno sfrangiamento del campione più rilevante, cioè che il sì avesse, diciamo, delle frange presenti. Invece va detto che in queste 610 votazioni praticamente il 99% ha indicato il no, e questo vuol dire che il popolo della famiglia è molto compatto. Chiara Sammorini ci ha ricevuto la lettera renziana per il voto per il sì, ma quanto ci è costato? È legale usare i soldi pubblici per una propaganda elettorale univoca? È una propaganda del Partito Democratico, quindi ovviamente è legale perché un partito può inviare il proprio materiale elettorale. La cosa interessante, però, apertura, visto che siamo sempre in una rassegna stampa, apertura del Fatto Quotidiano di oggi, che queste milioni di lettere sono state inviate da una società che è molto vicina alla famiglia Renzi, la cosiddetta Nexdive. Renzi invia milioni di lettere e ce le fa spedire dall'uomo degli affari di papà. Questo è la titolazione del Fatto Quotidiano e quindi anche qui, insomma, ovviamente è legale mandare materiale elettorale a casa del partito, non è un'indicazione del governo, però il fatto che si usi una società che insomma è servita a tappare un po' di problemi di Tiziano Renzi, il papà di Renzi, è un filino, diciamo così, fastidioso anche dal punto di vista proprio dell'etica pubblica, diciamo. Intanto il giornale parla di trucchi di Mariana Boschi per il voto in Argentina, si parla dei 50 milioni negati al Taranto per punire Michele Emiliano, che è un governatore contrario al sì. Si parla, insomma, i giornali oggi sono pieni di notizie. Francesca Centofanti dice: non ti ferma manco la febbre. Fra poco mi ferma perché, come vedete, qui sto proprio inguaiato, c'ho una fronte imperlata. Però oggi sono particolarmente intenzionato a portare avanti questa rassegna stampa per due motivi: per questa cosa del referendum, che è evidentemente molto rilevante, e per darvi queste notizie, appunto, l'arrivo dell'influenza straniera anche del governo tedesco, per darvi questa notizia delle lettere spedite a casa con questi soldi spesi attraverso questa società, insomma, tutte notizie che altrimenti non avreste conosciuto, e questa è la funzione di Stampa e Vangelo anche per rafforzarci nella nostra indicazione per il no. E volevo anche segnalarvi l'esito di quel sondaggio che fa capire, non è un sondaggio statisticamente rilevante, lo ripeto, però che fa capire che al nostro interno siamo invece molto compatti e se in poche ore centinaia e centinaia e centinaia di militanti del popolo della famiglia hanno dato un'indicazione univoca, vuol dire che con ogni probabilità avremo, insomma, un nostro modo di votare molto, molto, appunto, incidente. Insomma, centinaia di migliaia di voti probabilmente arriveranno anche dal mondo, diciamo, del popolo della famiglia, che ricordo ha preso 52.000 voti sui propri candidati sindaco alle elezioni amministrative che si tenevano solo in pochi comuni, quindi probabilmente i simpatizzanti sono molti di più in giro per l'Italia. Anna Russo mi dice: come stai? Antonetta De Jesu dice: riprenditi. Ecco, non sto benissimo, si vede che non sto benissimo, però cerco di non mollare. Cioè, una cosa che devo mollare è la riunione di domani dei romani, lo ripeto, vedo che è arrivato anche Dalino Leonardi e altri amici di Roma, non sarò presente alla riunione del coordinamento di Roma perché il medico mi ha prescritto almeno 3 giorni di riposo. Saluto Raffaella Dinolfi, dice: non abbiamo perso la memoria. Saluto Jacopo Pioli, Saluto Raffaele, Francesco Vir. E allora andiamo a leggere il Vangelo del giorno e come sempre la notizia con cui apriamo la nostra rassegna stampa. Il Vangelo di oggi è dal Vangelo di Matteo. Siamo stati molto tempo sul Vangelo di Luca oggi e siamo invece nel Vangelo di Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andarono oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. È una pagina molto bella, la frase è arcinota, no? Vi farò pescatori di uomini. Però quello che a me piace di questa pagina del Vangelo è l'abbandonare le cose e persino la propria, il proprio rapporto familiare. La frase finale, lasciata la barca e il padre, cioè una scelta radicalissima. Il cristianesimo è una scelta radicalissima, che dice dobbiamo essere, o siamo, qualche volta ci trasformiamo anche in gente, diciamo così, piena di buon senso e di tranquillità bacchettona. In realtà il cristiano è un radicale estremo, lascia tutto, abbandona, lascia la barca e il padre per la sola chiamata dell'incontro fondamentale con Gesù Cristo. Questa è una pagina bellissima. Vi farò pescatori di uomini, che è la parte che tutti conoscono. Va accompagnata, come sempre, con l'elemento del sacrificio fortissimo, del lasciare le cose e persino i rapporti più intimi, più forti, se Cristo chiama. Questo è quello che Silvia Lodà chiama l'affidamento totale al Signore. Allora, andiamo a segnalare altre notizie dalle prime pagine, perché oggi, oltre al fatto, voglio segnalarvi, c'è una bellissima pagina sul giornale della Basilicata con Giovanni Marco Tullio nelle vesti di teologo, una pagina intera di giornale con addirittura la foto di Marco Tullio più grande di quella del Papa, una foto, insomma, una pagina davvero. Vi consiglio di premere su Marco Tullio, che è sempre piuttosto restio e timido, e farvi postare la paginata del giornale della Basilicata. Perché, insomma, veramente siamo molto orgogliosi di vedere travalicare, diciamo, i nostri confini. Marco Tullio, teologo, sbarca sul giornale della Basilicata con grande attenzione. Saluto Nicola Di Matteo, che dice un caro abbraccio a tutto il popolo e la famiglia. Davide Verani dice: guarisci presto, certamente, però se non mi fermo un paio di giorni qui la guarigione non arriva, ho passato una nottata pazzesca, quindi vi chiedo un po' di comprensione se oggi la puntata non andrà molto per le lunghe, ma sono veramente un po' ridotto ai minimi termini. Dicevo, altre notizie, quelle di cui abbiamo già parlato ieri, il rapimento finto di Lapo El Khan è stata una cosa, vabbè, che ha caratterizzato la giornata del gossip. Una cosa che mi dà un po' fastidio è questo tentativo di fare la riabilitazione dopo neanche 10 ore. Lapo El Khan è simpatico, Lapo El Khan alla fine va capito, le tragedie, il rapporto con il collegio dove è stato violentato, insomma, non lo so. Forse quando si vedono cose del genere sarebbe meglio stigmatizzare e poi tacere, insomma, perché non si può non stigmatizzare un comportamento così folle da parte di un esponente importante della classe dirigente italiana. Ripeto quello che ho detto ieri, peraltro questa dieta di cocaina, marijuana, escort e trans è una dieta un po' tipica delle classi dirigenti italiane, ed era magari l'occasione per fare questa riflessione, non per fare la riflessione su come giustificare Lapo El Khan. Però detto questo, c'è anche l'altra notizia, abbiamo segnalato ieri mattina, della tragedia dell'aereo caduto, dove tra l'altro il sopravvissuto, c'è cioè uno dei calciatori che è sopravvissuto, che chiedeva insistentemente di tutelare la sua fede nuziale, cioè conservarla. È una scena molto bella, c'è un articolo di Aleteia che racconta questa forza d'animo di una persona che era sotto shock, ma era vicino al pensiero sempre alla famiglia, e questo davvero è abbastanza commovente. Infatti, dice Antonietta De Jesu, è un esempio per i giovani, ormai ce lo vendono così. La notizia altra che volevo segnalarvi, davvero incredibile, per fortuna ci apre Repubblica, una volta tanto capisce la gravità del fatto, è il medico di Saronno, vice primario di Saronno, che insieme alla amante killer ha ammazzato con i soliti farmaci che servono per una preparazione eutanasica 5 pazienti almeno, secondo l'inchiesta della Procura di Busto Arsizio. C'è il passaggio tremendo. Se vuoi, elimino i miei figli. Questa infermiera arriva persino a dire, così soggiogata dall'amore per questo medico, che oltre ad ammazzare il marito, pare che abbiano ammazzato il marito di lei, sono pronti ad ammazzare anche i bambini. Questo è una di quelle storie che bruciano dentro e che fanno capire quanta tragica sia una cultura che diventa cultura necrofila e abbandona la cultura della vita, che deve essere invece l'elemento principale e trainante dell'attività di un medico. Questo è davvero qualcosa che bisogna sottolineare. La notizia è terrificante, i dettagli li trovate un po' su tutti i quotidiani, ma l'apertura la fanno solo La Repubblica e il quotidiano La Stampa. Trovate poi anche su una prima pagina della Croce la notizia, ovviamente. La coppia diabolica che uccideva malati in ospedale. Questa la titolazione della Stampa. E allora questo vorrei che fosse evidentemente chiaro. Mi piace questa aggettivazione diabolica. Ricordiamo, quando parliamo di eutanasia, che siamo dentro questo territorio. Vi diranno che l'eutanasia viene scelta liberamente dai pazienti, ma realmente non è così. Purtroppo il potere di un medico è enorme, e dunque bisogna essere molto attenti quando si parla di questi argomenti. Soprattutto è la cultura della morte che vince contro la cultura della cura e della vita in ospedale, e questo non può che preoccupare moltissimo, indubbiamente. Oggi vedo che c'è un po' di durezza, diciamo così, nella trasmissione. Vedo il segnale che va e che viene. Segnalo anche da Il Messaggero la dichiarazione del miliardo di euro di compensazione che arriverà dalla famiglia Riva per i malati di Taranto. Questa è una notizia non trovata ovunque, ma che è importante. Chiara Sammori dice: tra un po' per uccidere malati non ci sarà più bisogno di coppie diaboliche. Esattamente, quindi se rivelano diaboliche sarà interessante. Laura Quarto dice: ma questo è un maschicidio. Effettivamente di questo stiamo parlando. Mi perdonerete dunque se oggi la puntata di Stampa Evangelo la chiudiamo qui. Vi ringrazio molto, siete sempre connessi in tanti, siamo in tripla cifra fissa tutti i giorni, nonostante la mia performance sia evidentemente insufficiente, di questo mi scuso con voi. Vi ricordo le notizie di oggi molto importanti: tentativo di invadere la sfera delle decisioni autonome dei cittadini italiani con il voto al referendum, con i ministri tedeschi che dicono che bisogna votare sì. Si aggiungono a Obama e al Presidente della Commissione europea Juncker, che hanno dato stesse indicazioni di voto. Vi segnalo, se volete partecipare al nostro sondaggio interno, diciamo così, che c'è un post fatto ieri pomeriggio per farvi votare sì o no al referendum e verificare quindi come stanno le nostre situazioni. Ricordarsi questa notizia terribile degli amanti diabolici in ospedale: vice primario e infermiera sopprimono almeno 5 pazienti, tra cui il marito di lei, e si dicono pronti a ammazzare persino i bambini. Voi capite a che livello si arriva con follie del genere. E poi, mi raccomando, cercate di far mettere da qualche parte la pagina del giornale della Basilicata, in cui Giovanni Marco Tullio fa il suo esordio pubblico, diciamo così, una paginata con fotografia addirittura più grande di quella del Papa come teologo, sulla questione dell'aborto, peraltro. Quindi mi fa piacere se riuscite a farla uscire questa pagina. Vi ringrazio molto, vi ricordo che mancano 2 giorni alla fine della campagna referendaria. Sabato c'è il silenzio elettorale. Domenica si vota, cerchiamo di stare molto compatti, molto uniti e andare tutti a votare no, a fare propaganda per il no in questi giorni. Sono passaggi determinanti, poi ricordiamoci che nei prossimi 6 mesi potremmo ritrovarci addirittura a fare le elezioni politiche. Franco Rossi Marcelli dice: ma che hai? Per la precisione è una sindrome influenzale con interessamento delle vie intestinali, dolori articolari e muscolari, insomma un po' tutto, 39 di febbre, nottata, diciamo, abbastanza agitata, ma si passa insomma anche attraverso queste giornate così. Poi i maschi non devono mai fare i piagnistei, altrimenti giustamente le femmine ci sfottono alle prime 2 linee di febbre. Vi ringrazio molto dunque per la diretta di oggi. Fate sapere che le lettere del sì sono state spedite con i soldi del Partito Democratico, sì, ma dati a una società molto vicina a Tiziano Renzi, diciamo così, utile a sistemare i problemi di Tiziano Renzi. E questo non è sicuramente un elemento geniale. Fate sapere di questa influenza. Non trovate su nessun quotidiano le dichiarazioni di sciopero del ministro delle finanze tedesco, le dichiarazioni del ministro dell'interno tedesco, le dichiarazioni di Juncker, le dichiarazioni di Obama, le abbiamo messe tutte insieme in apertura sul quotidiano La Croce. La battaglia continua, ecco, dice Alex Zino, la sindrome influenzale non ci fermerà. Ecco, la sindrome influenzale non ci fermerà. Saluto Gloria Gallarelli, che è appena arrivata, mi fa piacere salutarla perché oggi sul quotidiano La Croce trovate una sua intervista a Povia. Salutando Povia, salutando Gloria Gallarelli, riesco a salutare anche Gianfranco Amato, che ha appena fatto un'iniziativa anche a Perugia con Povia. E l'intervista di Gloria Gallarelli è molto molto interessante. Quindi, se volete, oggi sul quotidiano La Croce trovate anche l'intervista di Gloria Gallarelli a Povia, mentre l'editoriale, se non sbaglio, è firmato da Chiara Sammori. Quindi un saluto a tutti e ci ritroviamo domani, se riesco ad alzarmi, diciamo così, in tempo e in maniera decente per fare stampa e Vangelo. Come dice carinamente Danilo Nonardi, stai una chiavica, un abbraccio, e in effetti sto davvero una chiavica, ma cercherò di rialzarmi presto. Un abbraccio a tutti, grazie e da Maria di Nolfi una buona giornata.